piano. Di Enrico Ruggeri. Molti dicono che il carattere di una persona si vede dai suoi primi anni di vita, che c'è qualcosa già scritto nel nostro DNA e che non ci puoi fare niente, che sei già segnato. Come dire, sono due tesi controverse. Io credo nella tesi di mezzo, noi siamo metà DNA e metà esperienze fatte che ci cambiano. Comunque è evidente che c'è chi nasce per fare l'artista, chi per fare il politico, chi magari invece per occupare ruoli, diciamo, più marginali nella società. Però c'è chi dai primi mesi di vita ha già qualcosa di diverso dagli altri. In genere si dicono dopo queste cose, quando tutto è andato bene, ma io l'avevo capito che lui era uno speciale. Comunque il personaggio che sto per raccontarvi conferma la teoria, diciamo, del predestinato, perché lui è uno nato e vissuto sugli stessi binari che ha seguito da quando era bambino. Per presentarvelo uso un episodio raccontato da Clinton Walker, che è il suo, diciamo, biografo più accreditato. La storia di un bambino dal fisico esile e minuto, ma un bambino che ha già il rock nel sangue. Immaginate la scena, siamo nel 1953 in una piscina comunale del sud dell'Australia. C'è questo bambino di 6 anni, esce dalla piscina, si arrampica sulla scala di uno dei trampolini e senza farsi vedere arriva al trampolino da 10 metri. Si mette a sghignazzare guardando gli altri bambini che stanno in basso. Non ha paura di arrivare fin lassù. Ovviamente è ben contento di aver disobbedito agli adulti. Naturalmente a un certo punto il bagnino si accorge di lui, comincia a urlare, a dirgli di scendere subito da lì, ma a lui non importa. Anzi, è proprio quando il bagnino lo chiama che lui sente, come dire, il sacro fuoco, lancia una risata e si tuffa a braccia aperte. E quando riemerge ha lo stesso sguardo beffardo. Questo bambino si chiama Bon Scott, la voce dei primi AC/DC, quelli che sono arrivati in cima alle classifiche, quelli che hanno portato il loro rock negli stadi e soprattutto nelle case di tutto il mondo. Bon, gli altri membri della band dicono che sei un grande, che hai un qualcosa di speciale. Cosa ne pensi? Speciale? Sono un bevitore speciale. Bevo molto. Cosa pensi che intendano realmente? Non lo so, guarda, dovresti chiederlo direttamente a loro, credo. Ti senti una star? No, non ci penso nemmeno per un secondo. Questo è Bon Scott negli anni 70, quando gli AC/DC sono già famosi. È un uomo, un ragazzo che è diventato una rockstar, e lo è diventato non perché gli interessassero i soldi o la fama, semplicemente perché quello era il suo destino. E Bon nasce in una cittadina di nome Kirriemore, che è un paese di appena 5.000 abitanti. In realtà a Kirriemore era già nato un altro personaggio di cui avevamo parlato al Falco il Gabbiano, James Barry, l'autore di Peter Pan. Insomma, c'è questo paesino sperduto nel sud della Scozia che con pochi abitanti è riuscito a mettere a segno due colpi: uno scrittore di fama mondiale e uno dei più grandi rocker della storia. I genitori di Bon si chiamano Chick Scott, un panettiere, e Isabel Mitchell, detta Isa, una donna casa e chiesa che ama la musica, che ascolta il blues, il boogie woogie quando sta in salotto col marito. Insomma, una classica famiglia modesta e felice. Lui nasce lì nel 46, luogo sereno ma che gli va stretto da subito perché i posti tranquilli non fanno per lui. Fin da piccolo combina danni. Queste sono le parole della madre riportate da Highway to Hell, appunto la biografia scritta da Clinton Walker. Era appassionato a tutto, una mente tutta per conto suo. Imparò a camminare da solo. Non dovetti mai fare nulla, semplicemente un giorno entrò camminando. E quando cominciò ad andare a scuola, non rientrava mai a casa. Se ne andava via con alcuni dei suoi amichetti su nella collina. Mi toccava uscire e rincorrerlo. E così cominciò presto. E in questa famiglia si ascolta la musica, il fratello più grande suona il pianoforte, la radio è accesa e lui, questo bambino, Bon, mentre combina un guaio dietro l'altro, comincia a interessarsi a vari strumenti, flauto, fisarmonica, batteria, cornamusa, ha un fisico minuto, gracile, ma ha un'energia che lui deve sfogare in qualche modo. E siamo in un paese piccolino, all'interno della Scozia degli anni 40 e le opzioni non sono molte. O ascolti la musica oppure vai al pub e bevi whisky dalla mattina alla sera. E lui è ancora troppo giovane per bere whisky, si rifarà, però nel frattempo sceglie la musica, ascolta i dischi, canta, non si interessa molto di scuola. La madre racconta che per esempio la religione non lo interessa minimamente, però va a messa perché deve e vuole cantare nel coro. Poi arriva il momento di emigrare, dalla Scozia si va in Australia e per Bon Scott inizia una nuova vita. Così questo bambino scozzese a 6 anni nel 52 si trova a diventare bambino australiano. L'Australia in quegli anni è una nuova frontiera per gli europei, è un continente grande che offre opportunità. Ha partecipato alla seconda guerra mondiale inviando soldati, ma nel suo territorio non ha subito la fame, la distruzione. Insomma, è rimasto un posto tranquillo nel quale gli immigrati sono graditi solo se arrivano con intenzioni concrete, lavorative, ed è per questo che l'Australia è una nazione dove il benessere si sente ancora oggi. Lui non ha molta confidenza però con i posti tranquilli e combinava guai nel suo paese d'origine e lo fa anche in Australia, anzi più cresce più i guai si fanno seri. A 15 anni ha già abbandonato la scuola, sta lavorando in una fattoria, guida il trattore, meglio 20 ore al giorno con un trattore che stare sui banchi di scuola. Intanto ascolta Elvis, Little Richard, Chuck Berry e si fa il primo tatuaggio, partecipa alle prime risse in giro per la città. Insomma, sta vivendo il perfetto battesimo da rocker, la sua valvola di sfogo è la musica. E questo è un estratto dal documentario AC/DC Story in cui la madre parla del figlio. Tutto ciò che avrebbe voluto fare era cantare nella sua band. Non c'era assolutamente niente che avresti potuto fare per fargli cambiare idea una volta che aveva deciso, e perciò l'ha fatto. Lui è piccolo, è magrolino, però comincia a salire sul palco e lì cambia completamente, è determinato. E sì, sale sul palco perché sta cominciando a suonare in alcuni gruppi dell'Australia meridionale, gira i surf club della costa, il giorno lavora, la sera va sul palco. Non bisogna dimenticare un altro ingrediente importante della sua vita, le belle donne. E quando canti, indubbiamente, come dire, le probabilità se vengono decuplicate. Questo è uno dei motivi per cui molta gente inizia a cantare. Gli piacciono le donne, però le tratta da gentiluomo. Però se qualcuno prova a insidiare una donna che interessa a lui, è facile che finisca all'ospedale, ed è proprio per una donna che Bon finisce seriamente nei guai. Eh già, perché una sera dopo aver suonato, Bon prende una ragazza sotto braccio, le offre da bere, qualche brindisi, qualche battuta, probabilmente si alza un po' il gomito, poi arriva un uomo e comincia a provare con questa donna. Bon prima lo avverte, poi si alza e lo riempie di botte. Eh sì, perché quelli piccoli e magri, se sono decisi, a volte riescono a menare anche quelli grossi. Quando ti meni, l'importante è essere determinati. La serata non finisce alla rissa, il giorno dopo lo si leggerà anche in un articolo del West Australian. Un ragazzo di 16 anni si è dichiarato colpevole nel tribunale minorile di Fremantle alle accuse di aver fornito false generalità alla polizia, di essersi sottratto alla custodia legale e di aver rubato 12 galloni di benzina. Insomma, ricapitolando, Bond prima picchia il suo rivale, la polizia arriva sul posto, lui scappa con la macchina di un amico, la macchina è senza benzina, ne ruba un po' al distributore. Ce n'è per essere condannati, soprattutto in paesi come l'Australia dove non si scherza, viene condannato a 9 mesi di riformatorio, ha solo 17 anni, insomma sta diventando un soggetto pericoloso, imprevedibile, si comporta da gentiluomo con una donna, 5 minuti dopo manda all'ospedale un uomo grande, il doppio di lui. Appena uscito dal riformatorio, Bon Scott fa subito una cosa: entrare in un gruppo. Si chiamano Valentines. Il loro frontman si chiama Vince Lovegrove. Sta cercando una voce da affiancare alla sua. E Bon è il tipo perfetto, non solo per lo stile vocale, ma anche per il modo di vivere, che è perfettamente in linea con quello dei suoi colleghi. Il modo di vivere che è fumare erba e girare l'Australia senza un tetto fisso. E lì in Australia, oltre che del rock, Bon appunto si innamora delle droghe, in particolare della marijuana, e col suo gruppo, i Valentines, percorre la costa australiana da nord a sud in questo furgoncino colorato. Naturalmente sono sempre senza soldi, anche perché i pochi soldi che rimediano con i primi ingaggi li spendono in alcol e droga. E Vince racconta che Bon pranza e cena nelle file dei supermercati, entra, mangia tutto quello che può, esce pagando una birra piccola. E proprio Vince Lovegrove, che poi diventerà un critico musicale e scriverà molto sul suo rapporto con Bon, racconta questo aneddoto che, insomma, a suo modo è sintomatico e divertente. Laggiù a Brisbane avevamo un fan cinese che ci invitò per il cenone di Natale. Successe però che prendemmo questa mescalina, roba da morire da ridere. Il nostro amico Ted pensava di essere un ippopotamo e restò seduto in piscina tutto il giorno. Bon e io invece andammo a questo cenone. Quando arriviamo, il ragazzo ci apre la porta, ci presenta i genitori, che erano ansiosi di conoscerci. Bon a quel punto diventa improvvisamente un cinese, è presente, con le braccia conserte, che strizza gli occhi e in faccia quel sorrisino da idiota. Si inchinava e diceva parole senza senso. A ogni modo, servono il cibo, immagino che avessimo pensato che il tacchino fosse vivo o cose del genere, perché finimmo per andare via, scappando di casa e ridendo come due idioti. Quando tornammo a casa, Ted era diventato grinzoso come una prugna secca a forza di rimanere immerso nella vasca. Pensava ancora di essere un ippopotamo. Sesso, droga e rock and roll, e per Bon non è uno slogan semplice, è quello di cui lui ha bisogno. Quando c'è di mezzo la droga, quello che sembra il paradiso può trasformarsi in un inferno da un momento all'altro. Siamo nel 69 in un club a Torquay, siamo in Australia occidentale, i Valentines stanno per esibirsi, la polizia entra nei camerini per fare dei controlli e purtroppo apre gli armadietti e cadono addosso alla polizia buste di marijuana, tutte pressate per farne entrare il più possibile. Insomma, Bon è di nuovo nei guai. La notizia fa scalpore, è la prima band australiana che viene arrestata, vengono arrestati tutti per possesso di droga. Il concerto è sospeso e Bon va un'altra volta in carcere. I Valentines si sciolgono. Ci sono alcune storie della vita di Bon che non avrei mai voluto leggere sui giornali, capisci? Avrei semplicemente voluto passare oltre e far finta che non fosse successo niente. E queste sono le parole di Isa, la madre, che non può che assistere impotente allo spettacolo del figlio che si mette continuamente nei guai. Lui è bravo sul palco, però è votato a combinare disastri nella vita. È uno schema che abbiamo raccontato spesso parlando di stelle della musica, diciamo. Bon esce di nuovo dal carcere e pare trovare un po' di tranquillità in una donna, si chiama Irene Thornton, è una bionda di grande fascino, senso dell'umorismo, sembra amore, e i due cominciano a fare coppia fissa. E oltre all'amore, lui trova anche un nuovo gruppo, sono i Fraternity, una band rock, rock prog di Adelaide. È una città particolare, io ci ho suonato Adelaide, c'erano più calabresi che australiani, è la prima località australiana che però depenalizza la marijuana in quegli anni, che è tollerante verso l'omosessualità, che riconosce uguali diritti alle donne, insomma è il posto forse più avanti lì in Australia, è una città progressista, insomma, e lui lì si trova a suo agio, fa tutto quello che gli passa per la testa, non si sa se è lui che si cerca i guai o se è anche sfortunato, sta di fatto che quella città così permissiva in realtà non gli fa bene, il suo consumo di droga diventa consistente, così come quello di alcol, il suo comportamento è senza freni, la prima a accorgersene è la sua ragazza Irene, che comincia a trovare insostenibile la vita con lui. Faceva un caldo incredibile quel giorno, così Bond disse: vado a farmi una nuotata. Eravamo al molo con amici e l'acqua era così ferma e limpida che si poteva vedere un'enorme massa di grossi ricci di mare, meduse e altra robaccia tutta un palmo dalla superficie. Allora si guarda intorno, capisce di avere un pubblico e cosa fa? Si arrampica sulla torre del molo, sarà stata alta almeno 15 metri, e si tuffa in quell'acqua che faceva paura solo a guardarla. Tutti ad applaudirlo, ovviamente. Ecco le cose che era capace di fare Bond quando si trovava al centro dell'attenzione. Insomma, Bond non è cambiato per niente, è rimasto il bambino che si era lanciato da 10 metri nella piscina a 6 anni, è vittima di se stesso e della sua vita così eccessiva. Nel 73 intanto si sciolgono anche i Fraternity e finisce anche la relazione con Irene, e i suoi periodi di stabilità durano troppo poco, è come se si autosabotasse, come se cercasse di fuggire dalla tranquillità. Il suo unico modo di stare al mondo è sempre al limite dell'abisso, al limite del disastro, deve rischiare per sentirsi vivo fino al rischio supremo, quello della morte. Una sera lui comincia a bere la sua dose regolare di alcol, poi si mette in strada con la sua moto, sta tornando verso casa, è ubriaco, questo è abituale, e non si accorge che sta arrivando un'auto in senso opposto, la macchina lo colpisce in pieno, è un incidente spaventoso che finirà su tutti i giornali, va in coma per 3 giorni, Bond, quando si sveglia ha molte ossa rotte, la gola ricucita, con pochi denti in bocca. Bene, questo spavento non lo allontana di un millimetro dalle sue abitudini. Nella camera d'ospedale riesce a trovare degli spinelli, se ne fa uno dietro l'altro, beve alcolici da una cannuccia. Insomma, è un ragazzo che sembra abbia già vissuto 1000 vite, svariate ben dalle spalle, tante donne, la morte sfiorata, 2 volte in carcere. Lui ha 27 anni e il bello deve ancora arrivare, perché ci sono 2 fratelli, in realtà sono 3, uno fa il manager e gli altri 2 suonano la chitarra, si chiamano Young, hanno fondato una band che si chiama AC/DC, stanno cercando un cantante dalle caratteristiche particolari, vogliono uno che non abbia paura di niente, non lo sanno, ma hanno bisogno proprio di lui, di Bond Scott. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Bond Scott, rocker selvaggio, un uomo che ha vissuto anche un po' intrappolato nel cliché più ricorrente della storia del rock, fama e successo da una parte, vita sregolata, droghe, violenza, alcol dall'altra. L'abbiamo lasciato in ospedale dove era finito per un incidente gravissimo che sulla moto che lui stava guidando, ovviamente da ubriaco. È finito in coma, un passo dalla morte, poi però si è ripreso, riesce a uscire con le sue gambe dall'ospedale e deve ancora una volta ricominciare da capo, comincia a fare qualche lavoretto per portare a casa dei soldi, e una di queste occupazioni è veramente il suo bivio, perché c'è una cosa che lui fa che determinerà la sua fortuna, sì, perché guida un camioncino, un furgone, e tra i suoi clienti ci sono questi 2 fratelli, Angus e Malcolm Young, i 2 chitarristi degli AC/DC. Io lavoravo per un'agenzia australiana. Ero un autista e portavo gli SDC dall'albergo in cui stavano al concerto. Poi, finito il concerto, di nuovo all'albergo. In quel periodo stavano cercando un cantante, così gli dissi: io sono un cantante, posso cantare, datemi un'opportunità. E così iniziò tutto e da autista diventai cantante degli SDC. È una fortuna per entrambi, perché Bono è esattamente quello che serve agli SDC e naturalmente gli SDC sono quello che servono a Bono. È energia allo stato puro che si incontra. La band aveva un cantante, si chiamava Dave Evans, ma era un tipo un po' glam, non era ancora a fuoco. Insomma, Bono è perfetto, ha 10 anni più dei fratelli Young, che sono appena ventenni, ha un fisico mingherlino, sembra molto più giovane quando è sul palco. Diretto, è genuino, è rock. Questa è la prima impressione di Angus Young su Bon Scott. È un tipo abbastanza strano, mai con i piedi per terra, capisci? Te lo vedi arrivare come una specie di maniaco tatuato. Un ragazzo completamente pazzo che arriva volando con la sua moto sulla strada. E nasce subito un'alchimia perfetta. Nel 74 gli SDC registrano in 10 giorni il loro primo album, si chiama High Voltage. Canta 7 giorni su 7 con la sua band. Chi va a vederli non li dimentica più. Vivono a Melbourne, in Lansdowne Road, vivono tutti assieme in un appartamento che anche lì diventa lo stereotipo del rock bohemien, sempre pieno di bellissime ragazze. Bon che torna a roccheggiare sul palco, ormai ha dimenticato la bella Irene Thornton, e riesce a mascherare i dolori che si porta dietro dall'incidente. Non si lamenta, è la vita che ha sempre sognato di fare. Quando cominciammo come gruppo, non credo che ci fosse qualcuno in giro che facesse quello che facevamo noi. Penso che qui in Australia ci fosse proprio quello che ci fece ingranare. Agli inizi, qui in un sacco di posti, tutto ciò che la gente voleva ascoltare era rock and roll. E più veloce l'avresti suonato, meglio sarebbe stato. Per noi andava benissimo, perché è ciò che facevamo meglio. E nel 75 c'è un incontro non fortunatissimo, probabilmente, alla luce di quello che accadrà. È una ragazza, si chiama Judy King, lei è un eroinomane. Una sera lui rientra tardi a casa, la trova con un'amica e sono totalmente fatte, e cominciano a incitarlo a provare l'eroina almeno una volta, e lui, che fino allora non l'ha mai usata, cede, si toglie la cintura, la usa come laccio emostatico, si fa iniettare la dose in vena, crolla su una sedia dopo pochi secondi, il suo colorito diventa blu-grigio, tutto è molto preoccupante, ma lui respira ancora. E allora cosa fa l'amica? Gli inietta una dose di speed, un composto di metanfetamina, per riportarlo in piedi. Non succede niente. Per fortuna a questo punto Judy King fa l'unica cosa saggia, cioè chiama l'ambulanza, e lui si risveglia nel tragitto verso l'ospedale. Va detto che i due fratelli Young, Malcolm e Angus, sono contrari alle droghe e in realtà soprattutto sono contrari al fatto di mandare all'aria i concerti e di rischiare la carriera per colpa delle bravate di qualcun altro, bravate che secondo loro si potrebbero evitare. All'uscita dell'ospedale ci sono proprio loro a prenderlo. Arriva da lontano con le braccia conserte, scuotendo la testa, lo abbracciano, lo infilano nel furgone e guidano fino all'aeroporto. Stanno partendo per Londra, perché l'Inghilterra in quel momento è il posto giusto e gli SDC sono pronti al grande salto. E Bon non ha neanche il tempo di tornare a casa a farsi una doccia. E così a metà degli anni 70 in Inghilterra sbarcano gli SDC e arrivano nel pieno del movimento punk. I Sex Pistols stanno cantando Anarchy in the UK e hanno cambiato la faccia del rock and roll. Bon Scott, gli ACDC arrivano proprio agli albori di questa rivoluzione, quindi arrivano in mezzo alle creste, alle giacche di pelle borchiate, insomma hanno molte cose in comune con il punk, ma anche molte diversità. Le cose in comune sono caratteriali, le diversità sono musicali, perché insomma loro hanno un approccio diverso alla musica. Già il fatto che ci sia un chitarrista che fa meravigliosi assoli come Angus Young è in pieno conflitto, diciamo, con la filosofia musicale del punk. Ma gli inglesi si innamorano anche di loro e in poco tempo gli ACDC sono sulla bocca di tutti. Questo è il brano di un'intervista a Bon Scott, un'intervista del 76. Sei ormai un grande in Europa, specialmente per le tue apparizioni nei live. Puoi dirci qualcosa di più sul mercato europeo, su come si sono inseriti gli ACDC? Beh, come puoi capire, non è facile entrare in questo mercato. Ci sono dei veri mostri della musica là fuori. Poi noi non facciamo il punk che fanno tutti e in più siamo appena arrivati. Ma c'è una sorta di... è difficile da spiegare. C'è un pubblico sensibile che si emoziona con la nostra musica, probabilmente più emotivo di tutto il mondo. Le band inglesi sono quelle che suonano meglio il rock vero. E se lo sai suonare bene, tutti ti amano. Finora hanno sentito il rock inglese e americano. Ora hanno anche quello australiano. E gli ACDC sfondano anche in Inghilterra con High Voltage e col singolo Long Way to the Top. Firmano un contratto con una casa discografica mitica di quegli anni, l'Atlantic Records. Stiamo parlando di Led Zeppelin, Rolling Stones, Yes, Emerson, Lake & Palmer. E comincia anche a arrivare qualche soldo. E Bon è al settimo cielo, non tanto per il denaro, ma per il fatto che sta facendo rock, che la gente lo adora per questo. È al centro dell'attenzione, non perché si è buttato da una piscina, ma perché sta sul palco. Naturalmente il suo stile di vita non cambia e continua a ridursi uno straccio nei pub della zona, continua a svegliarsi la mattina in qualche vicolo di Londra senza ricordarsi nulla delle ore precedenti, e questi non sono fatti occasionali, questa è la sua routine quotidiana. Dopo il primo mese a Londra, gli ACDC hanno una settimana di tregua e per Bon è il momento di fare un vero e proprio tour nei pub. Al 20° pub della giornata rimedia un boccale di birra in faccia. Mark Evans racconta l'accaduto così. Ci raccontò di essere entrato in un pub e dopo neanche 10 secondi venne colpito in piena faccia da un boccale di birra. Non so cosa abbia fatto per prenderselo. Lui dice di non aver neanche aperto bocca, e in effetti in 10 secondi è difficile fare qualcosa per prendersi un boccale di birra in faccia. Ma con Bon tutto è possibile. Non so se credere del tutto alla sua versione. Il problema è che proprio in quella settimana gli ACDC hanno in programma una sessione fotografica. Bon non sa come mascherare i segni delle botte che ha preso. Gli viene un'idea, si mette degli enormi occhiali da sole da donna, quelli da vamp con la montatura colorata, e nascerà un servizio fotografico mitico. Molte foto di Bon Scott vengono proprio da quel servizio. Lui appare con questi occhiali che non sono nel suo stile, ma resteranno nell'iconografia del personaggio. E a Londra arriva l'amore del, con la maiuscola, la storia seria della vita. Si chiama Silver Smith, e però siccome Dio li fa e poi continua a accoppiarli, è una donna che ha anche lei un serio problema di eroina. Vive in un appartamento tutto suo nel West End. È una donna intelligente che forse scopre anche di lui aspetti inediti. Queste sono le sue parole. Bon era sempre a far casino, ma in realtà avrebbe voluto sposarsi, avere dei figli e tutto il resto. Bon amava la vita domestica, adorava la pace e la tranquillità. Aveva questa immagine pubblica da gestire, ma era probabilmente l'uomo più addomesticato che avessi conosciuto. Gli piaceva che tutto fosse ordinato. Quando era a casa, amava avere ospiti, stare seduti e intrattenerli. Ma poteva diventare anche molto silenzioso e malinconico se si fosse offeso. Era tipicamente un cancro. Beh, non sappiamo se è proprio la verità o il punto di vista di un ex eroinomane. Bon comincia comunque a sentire il peso dell'immagine che si è creato e capisce che in fondo è vittima del suo personaggio. Vuole darsi una sistemata, però ci sono due problemi. Il primo è che Silver, anche se è molto innamorata di Bon, teoricamente vorrebbe il suo bene, ma è una tossicodipendente, e questo rende la vita di Bon ancora più problematica. Il secondo problema è che gli ACDC non possono certo fermarsi, devono cavalcare l'onda in quel momento, rallentare, vorrebbe dire mandare tutto all'aria. E nel 77 bisogna andare negli Stati Uniti e Michael Browning, il loro manager, li esorta dicendo: dovete andare a rompere il culo agli americani. E gli AC/DC naturalmente rispondono all'appello e Bon Scott è il primo. Il falco e il gabbiano. E i fratelli Angus e Malcolm Young, insieme alla band con alla voce Bon Scott, hanno sfondato anche negli Stati Uniti. Let There Be Rock è andata su tutte le radio, anzi le radio, come dice il loro manager, diventano fanatiche della band, è la consacrazione in America. E qui però Bon più conquista il successo e più tende all'autodistruzione. Sembra incompatibile il fatto di essere da tutte le parti, su tutte le copertine dei giornali musicali, è incompatibile con la sua felicità interiore. Primo tra tutti i vizi che tornano subito è naturalmente l'alcol, ma comincia anche a far uso di droghe. Il batterista degli AC/DC, Phil Rudd, un altro non leggero sull'argomento, ricorda quanto fosse difficile stargli dietro. Un giorno erano a Disneyland in California, Bon prende la cosiddetta polvere d'angelo, che è una droga potentissima che lo manda in un trip molto profondo, e quel giorno i visitatori del parco non capiscono se quell'uomo completamente tatuato con gli occhi di fuori sia una delle attrazioni del parco o il risultato di una brutta sbornia. Nonostante questa sua vita spericolata, anzi forse proprio per quello, i fan degli AC/DC lo adorano e i fan del rock in generale hanno messo Bon Scott su un piedistallo. Il giornalista Phil Sutcliffe lo definisce così: Bon è di importanza vitale per la band, un bucaniere poco di buono e attraente. Dategli una gamba di legno e un pappagallo sulla spalla e sarà l'immagine perfetta del pirata Long John Silver. E intanto la vita privata di Bon comincia a perdere pezzi, la fidanzata decide di lasciarlo, la verità è che loro sono due drogati e può anche essere che Bon avesse davvero l'intenzione di creare qualcosa di stabile, ma per una coppia del genere è assolutamente impossibile. Lui cade di nuovo nel baratro, però la rottura con Silver lascia Bon svuotato, abbattuto, è un colpo troppo forte per lui, passa un mese intero in uno stato di apatia, non vuole vedere, ascoltare nessuno, e poi rialza la testa. E arriva un altro colpo d'ala in questa vita piena di cadute, di tuffi, per citare il tuffo della piscina del bambino Bon. La fine della relazione con Silver, alla fine, forse è una delle cose migliori che gli potevano capitare in quel momento. Si fa forza da solo, incassa il colpo, prova a risolvere i suoi problemi. Il problema principale è il problema con l'alcol. Comincia a svegliarsi ogni mattina alle 8:30 per andare a nuotare, mangia bene, beve solo sake, può alcolico è, però niente di grave, insomma, rispetto al solito. Insomma, si sta preparando al tour giapponese degli AC/DC e nel 79 intanto la band è tornata in studio, sta realizzando forse il suo album capolavoro Highway to Hell, è l'album che gli consegnerà la storia, è un successo globale, li manderà in cima a tutte le classifiche, ma è un successo che, come ahimè spesso accade, porta anche qualche problema. Perché tra tutti i fan, tra tutti i ragazzi innamorati degli AC/DC, ce n'è uno piuttosto strano, si chiama Richard Ramirez, è un tipo che porta sempre il cappellino degli AC/DC, che ascolta Nightcrawler, il predatore notturno in italiano, quello che si aggira nella notte, e lui è un po' un predatore notturno, non è un fan qualunque, insomma è uno dei serial killer più spietati della storia recente, è uno psicopatico, un satanista che entra nelle case di notte, che sequestra le famiglie, che le uccide in modi terribili, e lo prenderanno e si scoprirà la passione di questo Ramirez, di questo assassino terribile, la passione per gli AC/DC. Naturalmente nasce una polemica, no? In America succedono quelli che dicono che il rock è colpevole di scatenare gli istinti umani peggiori, le associazioni delle madri cristiane, cose di questo genere. Gli AC/DC stanno andando avanti per la loro strada, e però dal punto di vista mediatico nella ingenua America insomma è un brutto colpo. E intanto Bon sta cercando di riprendersi, di risollevarsi. Ha comprato un appartamento a Londra vicino a Buckingham Palace, ha conosciuto Anna, una ragazza giapponese che lo ha conquistato. Il tour è stato rinviato, ma l'amore no, e Bon è catturato dal fascino esotico di questa ragazza. In qualche modo le cose sembravano metterci fretta. Andare alla Albert Hall, al London Zoo, a cavallo come mi avrebbe insegnato, e in giro per l'Europa senza cartina. Mi resi conto in quei giorni che quando ci prendevamo per mano, spesso mi prendeva la mano velocemente, come se con quel gesto volesse dirmi qualcosa. Ma non era qualcosa sul nostro futuro radioso, era qualcosa senza speranza. Forse era in un inferno tormentato. Forse questa fretta è un istinto, è una specie di presentimento, e di certo Scott non è uno che può aspirare a una vecchiaia serena, non può aspirare proprio alla vecchiaia probabilmente, e infatti il destino sta per presentargli il conto. È la sera del 18 febbraio 1980. Un suo amico, un certo Alistair Kinnear, lo passa a prendere in macchina per portarlo al Music Machine. Bon è già ubriaco e al pub naturalmente continua a bere. Poi arriva il momento di tornare a casa, i due salgono in auto. Kinnear guida fino a casa di Bon. Una volta arrivato però Bon non ne vuole sapere di svegliarsi, e qui Kinnear prende questa decisione che sarà fatale, perché lo lascia addormentato in macchina, piega lo schienale per farlo stare più comodo, lo copre con una coperta e lo lascia lì. Da quel sonno Bon non si sveglierà mai più. L'indomani Kinnear si sveglia e ha smaltito la sbornia. Nel tardo pomeriggio, solo nel tardo pomeriggio, torna per riprendersi l'auto. Bon Scott è ancora lì. Bon Scott è stato ritrovato la scorsa notte in un'auto. Scotland Yard ha fatto sapere che non ci sarebbero circostanze sospette intorno alla sua morte. Gli SDC sono a Londra per produrre il loro nuovo album per l'Atlantic, ma per il momento tutto è stato sospeso. Sono tutti scioccati, ma la band continuerà nei suoi obiettivi. Non c'è dubbio a riguardo. È morto soffocato dal suo stesso vomito Bon Scott, come è successo ad altre rockstar, Jimi Hendrix, Jim Morrison. Dall'autopsia non emerge presenza di droga, non emergono segni di violenza, eppure quella sera ci sono delle cose che non tornano, a partire da lui, da Kinnear, perché nessuno sa cosa gli sia successo. Il giorno dopo la morte di Bon è sparito nel nulla e non se ne avranno più notizie. C'è chi pensa addirittura che il cognome Kinnear sia solo un falso nome dato dallo spacciatore Joe Furey, ma perché se Bon si fosse drogato non risulterebbe dall'autopsia? Insomma, ci sono varie teorie, anche cospiratorie, come spesso accade in questi casi, teorie che vanno avanti per molto tempo ma che non possono far niente per mettere da parte la realtà, perché la realtà è che Bon non c'è più. E queste sono le parole della sua ex fidanzata Silver. Andai in ospedale con Joe, un amico che in ospedale ci aveva lavorato. Non mi dissero che era morto. Ci misero in una stanzetta in attesa e poi ci portarono una tazza di tè. Joe mi disse che quando si comportavano così significava che c'era qualcosa che non quadrava. Poi arrivò il dottore e ci disse con freddezza che Bon era morto. Io andai completamente via di testa. Voglio dire, non diventai isterica o cose simili. Mi spensi completamente. La mia anima si vuotò del tutto. Gli SDC volano in Australia per i funerali, il mondo della musica è in lutto. Poi qualche giorno dopo, per una di quelle coincidenze terribili della vita, Bon Scott in un certo senso si rifà vivo, perché gli amici più cari di Bon Scott ricevono una lettera con su scritto tanti auguri di buon Natale. Il mittente è proprio lui, Bon Scott. È successo che non aveva messo abbastanza francobolli sulle lettere, e così le lettere, invece che arrivare a Natale, sono arrivate a febbraio. Un ultimo scherzo abbastanza inquietante del destino Bon, che ritorna tra i vivi per salutare per l'ultima volta i suoi amici più cari, quelli che gli sono stati vicini, ma anche quelli che non hanno saputo evitare l'autodistruzione di Bon e quelli che invece ce l'hanno proprio portato nell'autodistruzione, soprattutto donne, quelli che non gli hanno mai detto di fermarsi un attimo a pensare, anche perché forse, anche se gli avessero detto, non sarebbe cambiato più di tanto il suo destino. I colpi d'ala nel rock and roll a volte sono proprio così, riempi uno stadio, porti la tua musica nel mondo, ma non riesci a portare la pace dentro di te. E Bon Scott è un'altra di queste storie di cadute, di risalite, storie epiche ma anche tragiche. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete a ilfalcoelgabbiano@radio24.it, visitate la nostra pagina, venite nei miei social, nei nostri social, insomma, se volete sapete dove sono. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri, testo di Giovanni Savarese e Edoardo Prallini, produzione a cura di Luigi Speciale e Chiara Compagnoni.